24 mattino. Tanta gente, generalmente di destra in Emilia, ha votato Bonaccini. Io personalmente non l'ho votato proprio per stizza nei confronti del PD, nonostante i voti sotto la Meloni, ma sono due cose un pochino diverse. Obiettivamente Bonaccini ha amministrato bene. I 100.000 voti che mancano alla Lega li ha presi la Meloni, qua. Quindi non è che li abbia presi il Movimento 5 Stelle o il nostro caro presidente Bonaccini, li ha presi la Meloni, quindi siamo sempre in quel piatto lì. Oh, è vero anche che, dato che il raffronto sui 100.000 voti veniva fatto tra le elezioni europee e quelle attuali, quelle regionali, bisogna contare che in queste elezioni, quelle regionali, l'affluenza è stata più alta. Quindi il numero di voti aumenta in assoluto. Quindi c'è da considerare anche questo. Comunque, le vostre letture aperte su questo voto in Emilia-Romagna, la seconda parte di 24 Mattino, quella dedicata alla rassegna stampa, è sempre il 349-238-6666 per intervenire via SMS, WhatsApp e WhatsApp audio. Fate sentire la vostra voce. Al microfono sempre Simone Spezia. E iniziamo questa seconda parte, come sempre, dando un'occhiata alle prime pagine dei quotidiani, ai titoli principali. Per Repubblica è la prima sconfitta di Salvini. Il Messaggero più freddamente dice Bonaccini davanti alla Lega. Bonaccini vince, il PD ferma Salvini, è il titolo del Corriere della Sera. Grillini affumicati è il titolo del Giornale. Le sardine si mangiano i 5 Stelle. La Verità, il Fortino Rosso trema ma non crolla. Il PD tiene l'Emilia, destra valanga in Calabria. Piange il citofono è il titolo del Fatto Quotidiano. Creperanno comunisti? Punto interrogativo è il titolo di Libero. Emilia Bonaccini batte la Lega, fredda la Stampa. Soccorso Rosso titola il Manifesto, che dedica spazio anche alla Calabria, che va a Iole Santelli. E poi abbiamo il Sole 24 Ore, il Sole 24 Ore del lunedì, come sapete un numero diverso, un po' freddo. Arriveremo adesso al pezzo di apertura, che è sul fisco che incastra gli evasori con le prove raccolte sul web. Si parla anche di Brexit e anche di questo parleremo tra poco. Le imprese temono i costi fiscali. E infine la Gazzetta dello Sport, anche qua daremo lettura di un passaggio dalla Gazzetta su Kobe Bryant. Addio Kobe è il titolo di apertura, la leggenda del basket precipita in elicottero, abbiamo perso un amico. E poi a centropagina ovviamente il calcio, ringhio riapre tutto, la vittoria del Napoli contro la Juventus. Allora. Iniziamo come sempre da notizie un po' diverse rispetto a quelle di apertura. Come vi dicevo, tra poco, tanto con Paolo Mieli, arriveremo anche al commento di queste elezioni in Emilia-Romagna e a vedere un po' in Calabria, a vedere un po' come la vedono i giornali. E però ci sono molte altre notizie rilevanti in giro, a partire ovviamente dalla questione del virus cinese. L'allarme che arriva, il fatto che, come abbiamo raccontato anche in GR24, si iniziano a cancellare alcuni festeggiamenti del Capodanno anche in Italia, per così dire rispetto della situazione che si sta vivendo nella madre patria. Abbiamo pezzi che raccontano della blindatura che progressivamente sta avvenendo in Cina, in particolare intorno alla città focolaio di Wuhan, e al fatto che, come racconta il quotidiano La Repubblica, i 60 connazionali della città focolaio di Wuhan hanno detto di essere contrari all'evacuazione. Tra l'altro uno di questi 60 connazionali sarà ospite più avanti del nostro Alessandro Milan. Però fatemi soffermare su un effetto che, insomma, pochi stanno mettendo in evidenza in queste ore, lo ha fatto nei giorni scorsi il Sole 24 Ore, lo fa oggi ancora il Fatto Quotidiano con Nicola Borzi a pagina 7, ed è il tema degli effetti economici di una pandemia di queste dimensioni e tutte le preoccupazioni che generano. A luglio dell'anno scorso, racconta Borzi, l'Organizzazione Mondiale della Sanità e la Banca Mondiale hanno presentato il loro rapporto sulla preparazione globale contro le pandemie. Il messaggio dello studio è chiaro: non si tratta di ipotizzare se la pandemia arriverà, ma quando arriverà. E secondo il comitato di 15 esperti indipendenti che ha redatto la ricerca, il mondo è impreparato a gestire una concreta minaccia di una pandemia in rapida diffusione. Che esempio si prende? Beh, l'esempio che si prende sempre, se si vuole parlare appunto di un'epidemia o di una pandemia devastante, è quello del 1918-19, ossia la spagnola, che colpì 500 milioni di persone, un terzo della popolazione dell'epoca, e ne uccise oltre 50 milioni, il 10%. Si ammalarono 4 milioni e mezzo di italiani, i morti stimati nel nostro paese furono tra i 375 e i 650 mila. Ora, è vero che parliamo di un'epoca antica, parliamo del 1918-19, ma è vero anche che, insomma, i trasporti sono migliorati, il mondo è più connesso, si può fare in 36 ore il giro del mondo, ricorda Borzi, e quindi l'attenzione resta elevata, e resta elevata anche sul fronte economico. L'epidemia di SARS nel 2002-2003 costò oltre 40 miliardi di dollari, l'epidemia di Ebola ne costò in Africa occidentale fino a 53 miliardi di dollari, tra i 45 e i 55 miliardi di dollari l'H1N1 tra il 2009 e il 2010. Un'influenza virulenta come la spagnola costerebbe all'economia globale 3.000 miliardi di dollari, il 4,8 del prodotto interno lordo globale. Sono numeri importanti e destinati, ovviamente, sul quale è presumibile, è pensabile ed è sperabile che le classi dirigenti stiano ovviamente riflettendo. L'apertura del Sole 24 Ore, si diceva, è dedicata al sempre più frequente utilizzo, occhio a quello che postate sui social, al sempre più frequente utilizzo che fa il fisco dei social network e dei dati aperti per la lotta all'evasione. Cristiano Dell'Osso e Giovanni Parente a pagina 3 raccontano: l'ultimo caso è quello di un comune abruzzese, Pineto, in provincia di Teramo, che è riuscito ad accertare l'imposta di pubblicità non versata per 4 anni grazie ad alcune foto scaricate da Google Street View. Le immagini mostravano un veicolo su cui era installato un cartellone pubblicitario e la Cassazione ha respinto le obiezioni del contribuente che contestava l'utilizzabilità delle foto. Con un piccolo paradosso, uno dei tanti modi nei quali i giganti del web, spesso accusati di evadere l'imposta in Italia, possono indirettamente offrire informazioni preziose al fisco. E una via tracciata è quella francese, addirittura, e fatemelo dire, discutibile, è l'utilizzo, per così dire, industrializzato di questi dati. La legge di bilancio 2020 prevede la raccolta e l'analisi automatizzata dei dati pubblicati dai cittadini sui social network. Tra gli esempi circolati durante il dibattito parlamentare ci sono quelli dei falsi residenti all'estero che pubblicano continuamente messaggi o condividono contenuti dal territorio francese o geolocalizzati in Francia. Ebbene, questi dati si potranno utilizzare. Partirà una sperimentazione di 3 anni e vedremo che cosa ne emergerà. E a proposito di economia, vi voglio citare questo pezzo del quotidiano La Repubblica, pagina 23, se volete parzialmente collegato a tutte le questioni politiche. È un tema che abbiamo affrontato tra l'altro nei giorni scorsi anche con Maria Latella alle 8:20 ed è un tema sul quale inevitabilmente dovremo tornare, ed è l'enorme cantiere delle pensioni. Siamo appunto a pagina 23 di Repubblica con Valentina Conte, sulle pensioni ci racconta: parte il tavolo di riforme, ci sono 20 miliardi per superare la Fornero. L'obiettivo principale di governo e sindacati è dare maggiore flessibilità per lasciare il lavoro prima dei 67 anni, ma si punta anche a nuove tutele per giovani, donne e lavori usuranti. La maggioranza è divisa sulle proposte e ovviamente c'è un nodo delle risorse che, come sapete, c'è sempre. Siamo a pagina 23 del quotidiano La Repubblica. Prima di chiudere, beh, due piccole storie che sono niente male. La prima è l'inchiesta aperta dalla Procura di Roma, siamo a pagina 27 del Messaggero. Perché? Perché, come sapete, Roma ha un problema di buche. Come forse non sapete, una parte di queste buche dovrebbero essere coperte dai municipi, che sono gli enti territoriali del comune, per intenderci, che hanno una sorta di mini sindaci. E quello che forse ancora non sapete ulteriormente è che spesso questi municipi i soldi li spendono per altro, cioè i soldi che gli arrivano per le buche vengono spesi per altro. Le spese finanziate dai proventi delle contravvenzioni negli ultimi 3 anni, racconta Michele Allegri a pagina 27 della Cronaca di Roma del Messaggero, si leggono voci che nulla hanno a che fare con la manutenzione stradale: il pagamento di accessori per uffici e alloggi, manutenzione di beni immobili e arredi, carta e cancelleria per i vigili urbani, generi alimentari per la protezione civile, musei, mostre e pinacoteche. Di buche quasi non c'è traccia, e dunque la procura decide di aprire un'inchiesta. E poi dalla cronaca milanese invece del quotidiano La Repubblica, ieri, nei giorni scorsi, è successa una cosa incredibile sul palazzo della regione Lombardia, dove vengono proiettate delle pubblicità. Ebbene, è comparso lo spot di un sito di escort con le 3 migliori d'Italia, dove venivano indicate, ovviamente col nome, le stellette, il giudizio e tutto quanto. Le 3 migliori escort del 2019, la classifica finale votata direttamente da oltre 2,1 milioni di utenti di un sito proiettata su una delle facciate principali della sede della regione Lombardia. Contatto di foto e hashtag con il motto Lombardia al top. Il firmato è stato pubblicato su Twitter e l'esponente del Partito Democratico Bussolati dice: è vero che il presidente Fontana aveva detto in un'intervista alla Zanzara di Radio 24 di essere favorevole alla legalizzazione della prostituzione, di voler chiedere su questo tema autonomia a Roma. Forse questo è il primo atto concreto, dice Bussolati. Però c'è ancora una cosa prima di chiudere, prima poi di andare con Paolo Mieli all'analisi anche delle regionali, ed è la morte di Kobe Bryant, che abbiamo raccontato prima. Vi abbiamo letto anche un passaggio di questa sua meravigliosa lettera di addio al basket quando lo lasciò ieri, come avete sentito anche in GR24, è morto in un incidente di elicottero. E come vi abbiamo raccontato e come sapete, ha vissuto una parte dell'infanzia in Italia, dai 7 ai 13 anni. E sulla Gazzetta dello Sport, a pagina 7, Vincenzo Di Schiavi racconta di questo suo rapporto con l'Italia. Amava l'Italia tutta, non solo Pistoia, Rieti e Reggio Calabria, e soprattutto Reggio Emilia, la città a cui è rimasto più legato. E va Vincenzo Di Schiavi a pescare, insomma, le persone che sono state con lui, che l'hanno portato dentro la squadra. Ad allenarlo c'era già Andrea Menozzi, attuale responsabile del vivaio emiliano. E la cosa che mi ha colpito di questo pezzo è che poi, quando uno si trova un campione in casa da ragazzino e poi questo campione se ne va via, tende sempre a dire: ah, io l'avevo visto, si vedeva che era un pezzo sopra gli altri. Invece Menozzi, con molta umiltà, dice: allenavo la leva del 77-78, quella di Kobe, lui giocava anche con i più grandi, era un ragazzino talentuoso, enormemente competitivo, infinitamente motivato. Nessuno di noi però pensava potesse diventare il fenomeno che è stato. Pausa. GR24 mattino. Ed eccoci, caro Paolo Mieli, caro direttore, buongiorno. Eccoci qui. Nel Sardine Day, perché insomma, questa. Avevamo visto giusto a puntare i riflettori su questo movimento, dicendo che oggi sarebbe stato il giorno della verità: o sparivano del tutto o sarebbe stato il giorno del loro trionfo. In effetti, oltre a Bonaccini, che è l'eroe del giorno, e dietro di lui il segretario del PD Zingaretti, che su tutti i giornali compare in una foto felice come non si era mai visto, coi piedi sul tavolo all'americana, sì, al telefono, sì. Al telefono, mentre si compiace dell'esito del voto. Ma anche le sardine hanno la loro parte, sardine che ieri hanno fatto una finta uscita di scena dicendo: noi adesso ci ritiriamo in buon ordine, non andremo mai più in televisione, vedremo questo, perché poi quando ti vengono a cercare per portarti in processione, portarti agli onori, è difficile resistere alla tentazione. Però ieri hanno annunciato a tarda notte che sarebbero tornate ognuno al proprio lavoro, missione compiuta. Il fallimento totale invece, come è ovvio, è quello per Salvini, la prima volta dopo 2 anni che ha uno stop, e c'è da dire che è uno stop così non definitivo, a mio avviso, nel senso che è andata a infrangersi su un muro rosso, il muro rosso dell'Emilia Romagna, ma in tutte le altre regioni italiane continua a essere forte, e anche in Emilia Romagna ha dato del filo da torcere alle sinistre. Sì, la Lega, stando semplicemente ai voti per i partiti, si attesta intorno a un 32%, il Partito Democratico a un 34%, e quindi a buon gioco il centrodestra, a dire a questo punto l'Emilia diventa contendibile, e forse a buon gioco anche Mario Aiello a scrivere questo pezzo a pagina 6 del Messaggero. Paolo, che dice: il sistema Emilia Rossa comunque non c'è più, insomma, no? È finita quell'epoca. Sì. E infatti avrei visto che il titolo di questo articolo di Aiello è: la prima sconfitta di Salvini, ma al governo non do tregua. Ed, scrive Aiello, l'amarezza del leader che elogia l'affluenza e cita una canzone di Giorgio Gaber, La libertà e partecipazione. Devo dire che anche Salvini se l'è cavata ieri sera non male, in modo non malvagio, nel senso che è stato il primo ad andare in televisione, ha ammesso la sconfitta come un leader anglosassone, non ha fatto come tutti fanno sempre i leader italiani che accusano qualcun altro, e poi insomma è apparso disteso. Certo, quello che è successo ieri, come dicono tutti gli editoriali, Massimo Franco sul Corriere della Sera, Marcello Sorgi sulla Stampa, cambia tutto, nel senso che adesso non si parlerà più di elezioni anticipate nella prossima primavera, e di conseguenza neanche in autunno, tra l'altro visto che tutte le sinistre hanno deciso di candidare il ministro dell'economia Gualtieri nel seggio lasciato vacante da Gentiloni a Roma. Questo è un fatto significativo, perché lì in quel seggio Matteo Renzi aveva deciso di candidare per conto suo una giornalista di Repubblica che si batte contro i boss, Federica Angeli, giusto, certo. Poi l'ha ritirata, lei si è ritirata, e quindi adesso la sinistra si presenta unita con un personaggio che viene consacrato da questa probabile elezione, perché quello è un seggio rosso, certo, un po' come l'Emilia, lì dove la circoscrizione dove lo candidano. Altro elemento è ovviamente quello del Movimento 5 Stelle, no? Quella che a pagina 10 del Corriere della Sera Emanuele Buzzi definisce la Waterloo attesa dei 5 Stelle, insomma un risultato molto pesante, tanto in Emilia Romagna quanto in Calabria, no? Sì, a pagina 5 della Verità, Carlo Piano, da primo partito alla inconsistenza. Di Maio scampa il collasso del Movimento 5 Stelle, tutti mettono in rilievo il fatto che Di Maio ha fatto in tempo a scapparsene, a togliersi dal ruolo di capo politico, e dice: se al sud il candidato grillino almeno partecipa, in Emilia è prosciugato anche dal voto disgiunto, un disastro che l'ex capo politico, stiamo parlando sempre di Di Maio, aveva fiutato e dal quale si è sfilato all'ultimo, e ora sarà guerra intestina fino al congresso. Perché è importante questo? Importante innanzitutto perché si torna al bipolarismo: da una parte la sinistra capeggiata dal PD, dall'altra la destra capeggiata dalla Lega, anche se la Lega è ammaccata. Però vorrei mettere in evidenza che in compenso Forza Italia si è un po' riavuta, ha avuto un esito disastroso in Emilia, ma si è un po' riavuta in Calabria, quindi può tornare in pista come partito del sud, soprattutto del sud. Bizzarro che Berlusconi, l'uomo che rappresentava il nord del paese, adesso ha una ridotta nella parte meridionale del paese. Dicevo, questo tracollo grillino fa un po' traballare il governo, ma è più importante la solidificazione del PD e di quel Zingaretti che sta a piedi sul tavolo e ride su tutti i giornali, sì, del tracollo grillino, peraltro già annunciato. 31 se ne sono andati in Parlamento, Di Maio si è dimesso, non sarà facile fare il nuovo leader. Sì, insomma, il governo avrà le sue grane, ma potrà poggiare su Zingaretti, Gualtieri e chissà un giorno Bonaccini, quest'uomo che abbiamo conosciuto nel resto d'Italia in questa occasione, sì, potrebbe diventare una figura di riferimento, sì, un vincente da presentare, non dico la guida del PD, ma almeno nel gruppo dirigente ai massimi livelli. In fondo, oggi, fra ieri e oggi, nella notte fra ieri e oggi, è cambiata un po' la storia d'Italia. Sono quei giorni significativi per chi si interessa di storia, se lo segni. La notte fra il 26 e il 27 gennaio 2020. Tra l'altro, appunto, sul tema del Movimento 5 Stelle si soffermano in molti, a partire dal giornale il titolo, no? Grillini affumicati, addirittura con quest'idea delle sardine che si mangiano i 5 Stelle e molti retroscena, chiudiamo qua la pagina politica, Paolo, però molti retroscena su questo Conte che adesso si sente non solo rinfrancato ma con ormai come definitivamente come azionista forte di maggioranza il Partito Democratico. Sì, anche se adesso mettiamoci una nota dopo i trionfalismi di tutta questa parte della rassegna, già ieri sera fra il PD dentro il PD circolava perplessità sul fatto che Zingaretti avesse detto che Conte era il nuovo perno dell'alleanza della sinistra, il nuovo Prodi, insomma Conte è Conte. Oggi esce rinforzato da questa prova, però il PD ha capito che deve molto contare su se stesso più che sull'alleanza con i grillini di cui Conte è il garante. Comunque vedremo. Migliaia di altre occasioni per occuparci Non loro. Non c'è il minimo dubbio. Traffico. A prescindere dal voto in Emilia Romagna e in Calabria, intanto il mondo va avanti. Da una parte abbiamo parlato prima della questione del virus cinese, con qualche dettaglio ulteriore anche sui rischi che corre l'economia sotto questo aspetto. Intanto va avanti anche il processo che porterà alla Brexit. No, ne parla oggi il Sole 24 Ore a pagina 4, Paolo, no? Sì, c'è un articolo molto interessante di Dario Acquaro che insomma fa un po' i conti in tasca alle aziende, a come si comporteranno in occasione della Brexit, innanzitutto le prossime tappe, che sono tutte tappe molto ravvicinate, 29 gennaio, 30 gennaio, 31 gennaio, insomma venerdì prossimo alle 23, ora del meridiano di Greenwich, alla mezzanotte italiana, il Regno Unito lascerà formalmente l'Unione Europea. Le imprese che hanno rapporti con il Regno Unito valutano l'impatto in prospettiva. Al di là dell'esito del negoziato fra la UE e l'Inghilterra, anzi il Regno Unito, chiamiamolo ancora, 9 società su 10 avranno problemi legati alle imposte. Chi vuole sapere tutto di questi problemi connessi alla Brexit deve leggere Dario Acquaro. Sì. Nel frattempo continua anche, come tu hai detto, l'incubo per il virus che viene da Pechino. Ho letto su Libero, a pagina 8, un articolo di Filippo Manfredini, che a Hong Kong i residenti di Urione hanno assaltato lo stabile riservato ai sospetti malati. Insomma è una brutta notizia, a fuoco l'edificio della quarantena, la psicosi dilaga, in Italia più controlli a Malpensa e Fiumicino, annullate tutte le parate, ma questo già si sapeva, del Capodanno cinese. Sì, molti, molti dettagli li trovate un po' su tutti i giornali sostanzialmente, sì, anche un po' di guide, no, su come fare, a cosa stare attenti e via dicendo. Ti voglio portare su un'altra questione italiana, Paolo. Siamo a pagina 5 de Il Giornale e c'è un racconto. Ieri Liliana Segre è stata ospite di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa e insomma ha tirato fuori una storia curiosa e quasi inaspettata sul marito, no? Sì, dunque breve antefatto, a Verona hanno dato la cittadinanza onoraria a Liliana Segre, dopodiché hanno intitolato una via a Giorgio Almirante. Lei ha detto no, guardate, non Giorgio Almirante era un fascista, un razzista, se voi mi date la cittadinanza in concomitanza, quasi a legittimare questo secondo gesto, io me ne vado. E è venuto fuori, l'ha tirato fuori Fazio, ma era venuto già fuori sui giornali, che il marito di Liliana Segre nel 1979 si era candidato con Giorgio Almirante e con grande coraggio e grande dignità Liliana Segre, questo ne parla appunto il giornale a pagina 5, come tu hai detto, ha commentato, ha detto che questa cosa portò il loro matrimonio sull'orlo della crisi. Poi il marito partecipò a quelle elezioni nelle liste di Almirante, ma e prese tra l'altro pochissimi voti, ma decise di rinunciare completamente alla politica e scelse lei. Insomma, Liliana Segre pose un out-out prima ancora che la città di Verona al marito, il marito scelse lei e, ha detto Liliana Segre, passarono insieme altri 25 anni d'amore. Una vicenda che ha ricordato, ripeto, con grandissima dignità, senza tirarsi indietro e non trattandola come uno scandalo. Una gran bella storia. Gran bella storia quella di Liliana Segre. Abbiamo citato il Sole 24 Ore prima, fammi citare un altro elemento, un altro spunto che ho trovato interessante dal Sole 24 Ore. Siamo a pagina 5, il racconto di Marta Casadei, Michela Finizio invece ci porta sul trend di crescita nelle popolazioni dei comuni. C'è è un modo di trasmettere, no, quali sono le città che sono più attrattive in questo momento. Ci sono Parma, Milano, Roma, Rimini, Latina, ma quelle che perdono più abitanti sono Carrara, Benevento, Messina, Ascoli Piceno e Urbino, ma è interessante il fatto che ci siano anche dei piccoli comuni come Alagna Valsesia, che guadagna il 67% di abitanti, Sant'Alessio con Vialone il 44%, Cintano il 37%, anche dei piccoli comuni che alla fine attraggono, mentre sulle aree interne resta qualche problema. Altre cose che hai visto dai giornali oggi, Paolo? Mi è piaciuto il titolo di quell'articolo sul Sole 24 Ore, le città che battono il calo demografico. Questa battaglia contro il calo demografico è bello che abbia delle città. Io oggi, essendo il giorno dopo le elezioni, faranno attraccare fra oggi e domani le navi con i migranti, perché per non destare scandalo e fare polemiche, adesso è d'uso, accadde anche con le elezioni in Umbria, certo, che le navi con i migranti vengano tenute, è una pratica un po' bizzarra, un po' ipocrita, vengano tenute al largo fino alla domenica in cui si vota, e poi il giorno dopo, adesso sono 300, c'è un articolo di Fabio Albanese sulla Stampa, pagina 19, navi con migranti ancora in attesa di un porto sicuro, 331 le navi sono le solite, Ocean Viking e Alan Kurdi. E secondo me sarebbe forse il caso che si arrivasse a leggi più certe, a norme più certe, e anche se i migranti arrivano, perché questa pena per i migranti, oddio, i migranti stanno sul ponte della nave, tra l'altro a gennaio fa freddissimo, è peggio, molto peggio che d'estate, che però dicono sì, però rimanete sul ponte della nave ancora qualche giorno perché ci sono le elezioni, sì, poi potete scendere. È una cosa che è brutta di per sé, ed è brutta anche per i sostenitori dei migranti, per quelli che sono per i porti aperti, che si distraggono, sono costretti a distrarsi. Una volta va bene, due volte va meno bene. Evitiamolo per le prossime regionali. Evitiamolo per le prossime regionali. Sempre su quella pagina, sì, fammelo dire prima di chiudere, la denuncia dell'ONU, Haftar sembra che abbia violato la tregua, quindi brutte nuove dalla Libia, ne parla Francesco Semprini, siamo sempre a pagina 19 della Stampa. Grazie Paolo Mieli anche per oggi, ci ritroviamo mercoledì come sempre, ci fermiamo, GR24, ci ritroviamo subito dopo con Maria Latella e con le vostre voci anche all'800 24 00 24 per parlare di questo voto. A dopo.